con l'autrice, regista, attrice Daniela Giordano. Per parlare di uno spettacolo, una musica, un film di Chi è la Terra, ballata per Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto, che sarà in scena 28 e 29 marzo 2019 al Teatro Belli, all'interno della rassegna Diritti al Belli. Daniela, ben trovata. Bentrovati a tutti voi, grazie di questa opportunità. Sono qui pronta a parlare di questa esperienza che, come hai detto bene tu, ha delle fasi diverse. Nasce nel 2014 come uno spettacolo, appunto ballato per Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto. Sono insomma 5 anni che questo spettacolo continuiamo a replicarlo. Poi dentro lo spettacolo si è sviluppato autonomamente con una sua linea la parte musicale che è contenuta, che è un rap, che è il rap di Chi è la Terra. E nel 2018 la riflessione va avanti, perché insomma l'argomento un po' fosse chiaro anche già dal titolo, insomma parliamo della terra, del pianeta su cui viviamo, e il fatto stesso che ci si ponga la domanda di chi è fa pensare che ci possano essere più di una risposta, diciamo, è un, diciamo più, si può rispondere in modo differente. E infatti in qualche modo noi nel film, così come nello spettacolo, non diamo risposte, però creiamo delle suggestioni, cioè diamo dei punti di vista. Sì. Uno può poi sviluppare delle proprie risposte personali, ecco. Allora, raccontiamo un po' la storia dello spettacolo, di cosa si parla. Nasce da una suggestione di una campagna sociale di Action Aid di anni fa sul land grabbing, suggestione che poi è diventata prima una fase di studio e poi anche il desiderio un po' di raccontare questa storia, perché è una storia che ci riguarda, quella del land grabbing, e anche come effetti generati da politiche di green economy, come dire, benvenute in tutte le parti del mondo dove si consuma molto, e quindi c'è bisogno di cambiare i metodi, no? Di produzione, soprattutto di quelli che sono i prodotti che hanno previsto fino adesso l'utilizzo di fonti non rinnovabili. Per cui noi ci siamo posti, come dire, nella dimensione di vedere come possiamo mantenere tutti i nostri consumi intatti, tutto il nostro modo di consumare intatto, senza modificare in nessun modo le nostre abitudini quotidiane, semplicemente cambiando le materie prime, quindi non più petrolio, non più carbone, o comunque no, cercando di arrivare alla riduzione totale e investendo invece sulle famose rinnovabili. Ma per esempio per i biocarburanti, bioplastiche, abbiamo capito che possiamo, come dire, derivarle da vegetali e cereali. Questa cosa ha ovviamente determinato il fatto che per poter garantire però i consumi così come sono standardizzati, diciamo, nei paesi quelli industrializzati, servono delle vastissime regioni dove poter coltivare a livello industriale proprio questi vegetali e questi cereali destinati al biocarburante e bioplastiche. E questa cosa ha generato un fenomeno che le Nazioni Unite appunto hanno classificato come land grabbing, letteralmente accaparramento delle terre, perché territori molto vasti, soprattutto in Africa, eccetera, eccetera, sono state in qualche modo questi territori espropriati alle popolazioni che ci abitavano da sempre, con perdita di diritti, di sussistenza, impoverimento, di tradizione, no? anche di cultura, per poter fare spazio a queste coltivazioni destinate appunto non a uso alimentare, ma a produzione energetica, diciamo. E questo è un problema, cioè è una trappola della green economy, cioè noi abbiamo, come dire, la sensazione di fare del bene, no? Cioè, o meglio, possiamo pensare giustamente che dobbiamo cambiare, perché il problema del pianeta è della sopravvivenza del pianeta e quindi di tutte le specie che gli umani compresi, che il pianeta ospita, però questa soluzione in realtà ha creato un altro tipo di problema, che poi in qualche modo genera anche questi flussi migratori che sono non soltanto, come dire, determinati da guerre, ma anche da impoverimento e povertà. Cioè, è proprio una specie di. E tutto questo, diciamo che la suggestione principale è che tutto è collegato. Cioè, non si può proprio pensare di più di ragionare in termini di piccole soluzioni, cioè bisogna sempre avere un'idea di una complessità, cioè noi stiamo veramente dentro una rete globale, ma non da adesso, da sempre, solo che ora sia come siamo diventati e diventiamo sempre di più numericamente, dico proprio gli esseri umani si sono moltiplicati, quindi si sono moltiplicati i bisogni di sussistenza, di sopravvivenza e anche proprio le necessità di vivere bene, cioè non solo di sopravvivere, ma anche di avere un'aspirazione a vivere bene con un quoziente di soddisfazione e di felicità che deve spettare a ogni essere umano sul pianeta, indipendentemente da quale area geografica occupi, no? È chiaro che bisogna ripensare un po' tutto e bisogna ripensarlo in un modo che non possa più prevedere un nord e un sud del mondo, cioè bisogna pensarlo un attimino veramente al di là, mi dispiace per i terrapiattisti, però veramente bisogna pensarlo veramente come una rete che come dire, riesce a fare il giro del mondo in tutti i suoi sensi ed è, come dire, ogni soluzione deve un po' tenere conto di, anche degli effetti possibili, sempre. Come strategia si può fare, insomma, ci sono i modelli matematici anche adesso che ci possono aiutare, come dire, a vedere gli effetti, no? Di qualsiasi scelta si possa fare per cercare di capire quali possono essere le soluzioni migliori. Sicuramente la cosa principale è poi riuscire a mettere anche le scelte individuali, io credo poi fortissimamente, e questo è l'aspetto che porto avanti soprattutto nel cortometraggio di Chiedi a Terra, che abbiamo girato l'altro anno, che diciamo centra il suo focus sul lo spreco delle risorse idriche, no? Di quanto poi le scelte individuali sia fondamentale, perché poi l'efficacia delle politiche è più o meno efficace a seconda di quelle che sono le scelte personali delle persone, dei singoli individui. Io credo fortissimamente che le persone possono, nel loro quotidiano, quindi nelle cose che possono fare nella loro quotidianità, quindi renderle un'abitudine più o meno virtuosa, possono effettivamente creare degli effetti che si ripercuotono in modo, come dire, più o meno virtuoso in tutto quanto il meccanismo delicatissimo che ci tiene in vita su questo pianeta, cioè proprio detto proprio terra-terra, insomma, cioè ognuno di noi può fare qualcosa, cioè non è colpa solo dei governi, i governi hanno un certo tipo di responsabilità, uno, ma poi le singole persone ne hanno altre che sono paritetiche. Cioè, dice, ma non conto, dice, è una goccia nel mare, però il mare è fatto di gocce. Cioè, come dire, è vero, è una goccia nel mare, però il mare è fatto di gocce. Quindi è veramente come orienti, come ti orienti, è un orientamento. Daniela, in chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti internet per saperne di più sullo spettacolo e su tutto quello che è legato al tuo spettacolo? Allora, i riferimenti internet, noi abbiamo una pagina Facebook che è Di Chi è la Terra, se si può trovare lì tutte le informazioni. In scena con lo spettacolo sono con Danila Massimi, dico anche queste cose perché sono importanti. Lo spettacolo è scritto da me, Michele Cidoni, Danila Massimi e Marco Peruggio, mentre invece del film sono tota autrice del concept, della sceneggiatura e poi anche della regia. Sono due visioni complementari in qualche modo perché il pensiero è lo stesso. Mi piace anche dire che il cortometraggio ha vinto anche dei premi internazionali importanti perché abbiamo vinto il Best Music Award a Bollywood in due festival sia a Noida che a Mumbai. Ha vinto anche una migliore sceneggiatura e insomma mi fa piacere che in alcune parti del mondo, anche molto lontane, no? Però molto, con una cultura cinematografica che sta veramente molto lanciandosi in modo competitivo sul mercato, questa riflessione sia stata accolta con questo riconoscimento, quindi sono molto contenta. Questa per noi del Teatro Belli, ricordo il 28 e il 29, proporremo in due serate uniche sia lo spettacolo che il film, è in anteprima nazionale per il pubblico, insomma, e quindi aspettiamo tutti, ci si diverte, ecco, questo forse vale la pena dirlo perché i temi sono molto seri, però la scelta della narrazione è una scelta volutamente leggera e accogliente, non è una lezione frontale, come non deve essere l'arte mai. E allora ricordiamo di chi è La Terra, ballata per Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto, uno spettacolo, una musica, un film a Roma, al Teatro Belli, 28 e 29 marzo 2019, all'interno della rassegna Diritti al Belli. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, regista, attrice Daniela Giordano. Un abbraccio Grazie, e ci si vede a un abbraccio. teatro. Ciao Daniela. Grazie, a teatro, ciao, ciao.